quant'altro, quanto non ci riesco, vabbè, non per martedì, mercoledì, però ecco, posso salire anche lunedì, già mi chiede il sacco, capite? Ti faccio fare tutta la calcia nel culo, brutta figlia di puttana. Coglione! Che quello è il tuo orgoglio. Ragazzone qua.